Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Mercoledì 24 marzo, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Siete su Liberi Dentro e Duradio, ore 9 su Radio Città Fujiko, ore 10.30 su Teletricolore. Do il saluto, il buongiorno ai miei ospiti. Abbiamo Ignazio De Francesco da Montesole, sempre qui con me, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. E Roberto Lolli, siamo in famiglia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Con le notizie dalla nostra società, tra il mondo del carcere e della cittadinanza, oggi parliamo di donne, in particolare degli agenti di polizia penitenziaria. Leggo la notizia da Il Dubbio. Le agenti sono il 10% della polizia penitenziaria. L'ingresso fondamentale di figure femminili nel personale, anche con ruoli di direzione e di comando della polizia penitenziaria, ha avuto un impatto importante nel percorso verso una migliore, diciamo, attenzione al tema delle donne. Il problema però è che nel mondo della polizia, in particolare penitenziaria, c'è ancora tanta strada da fare su questo, perché le donne che lavorano all'interno di questo sistema di polizia penitenziaria sono soltanto il 9% del personale tra gli agenti. Ci sono esperienze però europee che ci danno un quadro diverso. Pensate che in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Portogallo, Regno Unito, Germania e Francia le donne sono ammesse anche nelle sezioni maschili della polizia penitenziaria. Poi c'è anche tutta la questione di come si lavora all'interno delle carceri. La CGIL, per esempio, il sindacato, denuncia il fatto che il carcere è storicamente un ambiente maschile, costruito per i maschi, tante volte l'abbiamo detto a Eduradio questa cosa, e quindi porta in sé anche una serie di aspetti organizzativi e pratici che rispecchiano quel mondo lì. E invece ci sarebbe bisogno di più donne fra gli agenti della polizia penitenziaria, anche per rispecchiare un modo diverso di fare, una parità di genere, cioè un modo di procedere che rispecchi gli avanzamenti che stiamo facendo dal punto di vista sociale e anche in vista della finalità rieducativa della pena. Ma io do la parola sempre a te, Ignazio, con le nostre notizie internazionali, con una notizia profondamente legata a quello che ho appena detto, vero? Esatto, perché viene dal Marocco e riguarda l'impegno di donne, l'impiego di donne in posti difficili, in posti di responsabilità, come l'Agenzia della Sicurezza Nucleare e Radiologica. Noi siamo abituati sempre, c'è questo anche stereotipo, quello che viene dall'altra parte del Mediterraneo è sempre in ritardo, ecco, di qualche anno, se non di qualche secolo, rispetto a quello che noi pensiamo l'evoluzione. Ma questa notizia che ci viene data da Le Matin, che è un giornale in lingua francese del Marocco, ci dice che nell'Agenzia appunto della Sicurezza e della Sicurezza Nucleare e Radiologica, quindi insomma una cosa molto importante e delicata, conta il 49% delle donne tra i suoi impiegati. Non solo, il 43% delle donne sono nei posti di responsabilità. Sono dati ufficiali che vengono dall'agenzia. E queste notizie sono state divulgate in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l'8 marzo, in cui appunto dal Marocco ci viene detto che il progetto è anzi quello di arrivare a una parità assoluta nei posti di impiego nella sua agenzia, come segnale anche per l'intera società marocchina. E mi sembra molto importante, si potrebbero fare anche tante considerazioni. Pensiamo per esempio che nell'ottica araba, islamica, sharaitica, ecco, il compito della donna è essenzialmente quella di cura della famiglia, dei figli, suo compito di madre, ed è giustissimo, la donna deve poterlo fare, se vuole poterlo fare, ma tuttavia c'è una crescente attenzione anche nel mondo, diciamo così, nei paesi a maggioranza musulmana, nel riconoscere che la donna può svolgere dei ruoli di lavoro e di anche di direzione pari a quelli degli uomini. Quindi è un segnale molto, molto incoraggiante, ne abbiamo già dati tanti, dal Sudan, persino dall'Arabia Saudita, quindi credo che sia una bella cosa che possiamo dire oggi. E poi c'è il momento quasi di lanciare la nostra musica, e ancora con un omaggio all'Iraq, vero? All'Iraq, e ancora una donna, FIFA, Iskandar e Stefan. Allora, io direi questo, non so se qualcuno di quelli che ci sente ha mai sentito l'orchestra Barzizza, il duo Fasano, il trio Lescano. Fanno parte della storia musicale d'Italia. Ecco, vedo che Roberto sorride. Ecco, facciamo un tuffo un po' nel passato della musica irachena. Questa cantante che è nata nel 10 dicembre del 1921 a Mosul, in Iraq, ed è stata considerata, adesso è morta qualche anno fa, è stata il merlo, l'uccellino dell'Iraq, che ci canta Jus Minhum, cioè separati da loro. È la protesta coraggiosa di una donna contro l'ingratitudine di chi lei ama e serve non ripagato. Eccoci, bentornati su Edu Radio, sulle note di Afifa e Stefan, questo nostro omaggio all'Iraq che ci accompagna oggi, e con te Ignazio, sempre col nostro Galateo Arabo Internazionale. E mi piace questa parola internazionale, perché stiamo parlando di mangiare, come mangiamo dice anche molto di come siamo, no? E quindi vorrei chiederti come si fa a mangiare con moderazione? Allora, è un tema molto importante. E pensate, uno potrebbe dire, ma sì, va bene, mangiare uno deve evitare perché c'è il colesterolo, ecco, in una civiltà come quella islamica, araba, se ne è occupato un autore come il Ghazali, chi ci ascolta e che è arabo e musulmano sa di chi parlo, nel suo celebre testo, l'Ihya ul-Din, cioè rivivificazione delle scienze religiose, lui dice che il mangiare senza moderazione colpisce tre cose, darar al-sharai, cioè in qualche modo uno si abitua a poi a mangiare le cose che non sono buone, non sono lecite per la persona. Poi l'ikthar fi ta'am wa sharab. Si è bloccato. L'eccesso. Aspetta, ripeti la parola. L'ikthar fi ta'am wa sharab è un darar badani, cioè non bisogna far male, non bisogna colpire il proprio corpo con il cibo, con la funzione di cibo. E poi ancora produce l'eccesso di cibo un fasad wal amral wal kasal anisala, cioè una pigrizia, per esempio nella preghiera, ma anche nelle attività della vita. Cioè il cibo, dice il Galateo arabo, deve essere una risorsa, non un impedimento per vivere bene. Giustissimo, Ignazio. E allora, siccome stiamo parlando sempre di virtù, ecco, in qualche modo, io mi riallaccio a te, Roberto, sempre presidente di Associazione Avoc, per chi ci ascolta per la prima volta. Eh beh, è vero. Volontario. Chi si connette ad ora su Radio Città Fujiko o su Teletricolore, ti devo presentare in qualche modo. E Roberto, le persone detenute da Avoc in qualche modo non vengono abbandonate, ed è questa è una cosa bellissima di questa associazione, neanche al momento della scarcerazione, perché poi si apre uno scenario, no? di fronte alla persona che si trova finalmente scarcerata, a volte del nulla. E quindi se hai qualcosa da raccontarmi su questo e come Avoc interviene? Ma sì, le storie sarebbero tante. Adesso diciamo che me ne è venuta in mente una per dire come interviene. Noi avevamo conosciuto un ragazzo del Centrafrica in carcere dopo aver fatto qualche anno a Ravenna sulla costa. Poi insomma potete ben immaginare, è stato un po' di anni alla dozza. però molto volenteroso, voleva lavorare, moglie e figlia in Africa, voleva portarli in Italia. Quando è uscito aveva ancora una piccola pendenza, quindi prima del proprio del fine pena è stato accolto in uno degli appartamenti che abbiamo, adesso sono 8 gli appartamenti, per circa 20 posti letto a disposizione, messi a disposizione dal comune e da una famiglia privata che se ne ha dato in uso gratuito uno. Ecco, noi queste persone le accogliamo negli appartamenti e cerchiamo di non fargli mancare niente, con molta umiltà, molta semplicità e senza costi, proprio perché all'inizio hanno bisogno di rilanciarsi. Questo ragazzo si è dato da fare, sapeva le lingue, è entrato in un albergo, è stato assunto in prova, dopodiché è diventato usciere nell'albergo, dopodiché l'hanno spostato in un albergo in centro, dopodiché è arrivata la moglie, è arrivata la figlia, lui sa le lingue, ha preso la patente, diciamo che è molto utile, credo che stia facendo bene nella società. Ha cambiato strada, probabilmente prima non aveva incontrato nessuno che gli potesse dare una mano a cambiare strada, quindi l'aveva dovuta prendere brutta. Ecco, questo diciamo è un aiuto, l'aiuto che noi diamo è quello di non, per quelli che possiamo chiaramente, non abbandonarli, quando escono devono andare ai servizi sociali, quando escono devono fare alcuni passaggi, devono fare i documenti, devono eventualmente chiederli perché qualcuno di loro non ce li ha proprio. È evidente che vengono negli appartamenti quelli che non hanno legami familiari o li hanno interrotti e stanno cercando. Noi per esempio abbiamo alcuni che passano un periodo da noi, si rincontrano con la moglie e con i figli e dopo magari riprendono un rapporto che si era in un qualche modo interrotto, magari non sempre finisce bene, però ci provano. C'è qualcuno che, ecco, quindi senza far nomi, ci sono tantissime realtà che possono essere incontrate. E noi facciamo quel poco che possiamo, siamo operatori volontari, non siamo specializzati, lo facciamo col cuore per quello che possiamo e che riusciamo. È chiaro che negli anni le collaborazioni con i servizi sociali del comune, col carcere stesso, perché c'è questa commissione di mittendi cui partecipiamo e dove vengono esaminate le persone che poi usciranno, quindi si cerca di fare per quel che è possibile un progetto. Certo che è molto difficile perché una società non possiamo, per i detenuti non possiamo ancora definirla inclusiva, anche se ci sarebbe bello definirla, per loro è molto difficile trovare casa anche se hanno la possibilità economica di pagare un affitto, certo. Perché quando sulla carta d'identità c'è scritto via del gomito, la gente quando arriva a chiedere una copia dei documenti onestamente fa fatica a affittarti casa. Non è una critica, è una constatazione, quindi certo. È una cosa che va vinta, ma va vinta anche però dimostrando la volontà di far bene, perché è evidente che non può essere vinta da una sola delle due parti. Quindi ecco, AVOC è un po' lì in mezzo, diciamo, ecco, in quel territorio dove si può, si fa e si cerca di fare il meglio che si può. Grazie Roberto, a voi. Di tutte queste cose che ci racconti, e io lancio un brano musicale a metà puntata. Katy Perry, Roar. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely, I guess that I forgot I had a choice, I let you push me past the breaking point, I stood for nothing, so I fell for everything, you held me down. Bentornati, rieccoci su Liberi Dentro. Oggi siamo con la nostra ospite, la nostra formatrice su diversi temi, tra cui il dialogo interculturale, interreligioso e la ricerca di spiritualità, che è Rosanna Sirignano. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta con noi. E riprendiamo il filo dall'ultima volta, dove ci siamo lasciati parlando dei primi due pilastri dell'Islam. Abbiamo prima introdotto la parola Islam, cosa significa, poi abbiamo affrontato i primi due pilastri, quindi abbiamo affrontato la testimonianza di fede, trovando i parallelismi col cristianesimo, la Shahada, e poi la preghiera, la Salat, e oggi parliamo del terzo, che è la Zakat, ovvero l'elemosina. Io spero di aver pronunciato tutto bene in tutto ciò, e volevo chiederti di spiegarci un po' come nasce anche un po' storicamente, dove lo collochiamo questo pilastro, e poi dopo anche perché è chiamata preghiera legale. Zakat storicamente si colloca durante la predicazione del profeta Muhammad, che ricordiamo aveva ricevuto la rivelazione del Corano che conosciamo oggi nel VII secolo, e la Zakat e la preghiera sono spesso menzionati nel Corano insieme. Perché l'uno rappresenta il rapporto dell'individuo con il divino e l'altro rappresenta il rapporto dell'individuo con l'altro, il simile a me. E queste due cose vanno sempre insieme, sono dei pilastri importantissimi a cui appunto la narrazione coranica dà molta molta importanza. L'uno non esiste senza l'altro, adorare Dio non esiste se non mi prendo cura dell'altro e soprattutto se non faccio circolare in maniera equa il bene comune. La zakat è appunto l'elemosina legale perché non è una donazione spontanea. Esiste chiaramente anche il concetto di donazione spontanea nell'Islam, di cui magari parleremo dopo, ma la zakat è proprio una percentuale che viene prelevata dal surplus di guadagno delle persone che se lo possono permettere, quindi solo delle persone che hanno più beni di quelli che hanno bisogno per vivere. Viene prelevata questa percentuale e distribuita distribuita per diverse categorie di persone, chiaramente priorità alle persone più vulnerabili. Quindi in realtà è un modo per equilibrare la circolazione di economia nella società, e possiamo dire che somiglia molto al principio contemporaneo di giustizia sociale. È un welfare che nasce all'interno di un contesto, diciamo, più religioso. È molto interessante questa cosa, molto, perché si differenzia molto, molto rispetto a quella che per noi nella nostra cultura è l'elemosina, che invece non è proprio un gesto, un atto volontario. E volevo chiederti, sì, a proposito, se c'è un termine diverso per indicare invece proprio l'elemosina come la intendiamo noi rispetto a zakat. Sì, l'elemosina spontanea si chiama sadaka, ed è molto bello un hadith del profeta, un detto del profeta Muhammad, che ci ricorda che la sadaka, l'elemosina, è anche un sorriso. Quindi anche sorridere ad un'altra persona diventa un atto di generosità spontaneo, e questo lo si può fare a prescindere. Ma il fatto che la zakat sia proprio un obbligo, perché dire pilastro vuol dire obbligo religioso, è molto indicativo, perché indica l'obbligo per il musulmano, che se lo può permettere, di purificare i propri beni donandoli agli altri, e quindi per evitare quella differenza che c'è fra ricchi e poveri. Ed è anche un obbligo, è interessante che è anche un obbligo che fissa una quota in modo che tutti diano allo stesso modo e nessuno si senta superiore ad un altro nell'aver donare donato di più. Molto molto interessante. È il momento del nostro brano musicale. Cosa lanciamo oggi? Oggi lanciamo Fear of South del Teen Head Trio, che suona un po' come una società in cui circolano rapporti di solidarietà. Thank you. rieccoci sulle note musicali di Fear of Thought e volevo chiederti, Rosanna, nella, siccome stiamo parlando della zakat, dell'elemosina legale, nella vita quotidiana chi riceve la zakat? Dunque, i primi beneficiari della zakat sono ovviamente le persone povere, le persone che non hanno abbastanza mezzi di sostentamento, e possono essere anche altre categorie di persone vulnerabili per altri motivi che non sono strettamente economici, ma anche per esempio sono beneficiari della zakat le persone che contribuiscono alla crescita dell'Islam, in qualche modo sostengono i musulmani e quindi gli si dà un supporto economico. Un'altra categoria è quella dei nuovi musulmani. Io ad esempio sono stata beneficiaria della zakat quando nel 2010 sono diventata musulmana. In quel momento io mi trovavo a Damasco e quando nel quartiere in cui vivevo, che era un quartiere popolare di Damasco, si sparse la voce che io avevo appena pronunciato la shahada, perché appunto è con la testimonianza di fede che si entra nell'Islam, ho cominciato a ricevere dei doni ed a un certo punto anche una somma di denaro. E io non capivo, in quel momento, nonostante avessi studiato tanto dell'Islam, poi quando ti arriva nella vita reale non ci pensi. E io non capivo, cioè, ma perché mi state dando questi soldi? Erano dei soldi per incoraggiarmi, ma soprattutto, e questo lo ricorderò sempre con molto piacere, questa donna mi dice, no, questo è un dovere per noi, quindi per noi è un dovere farti questo dono, anche perché tu sei qui lontano dalla famiglia, e stai studiando l'arabo, stai studiando il Corano, e quindi questo è un contributo per i tuoi studi. Quindi anche lo studente che non può, che ovviamente dipende dalla famiglia, non ha un lavoro, diventa beneficiario della zakat, soprattutto ecco in un momento così delicato che è il passaggio all'Islam. E io con quel denaro comprai una stufa e conservo ancora la, perché faceva molto freddo, tra l'altro venne a nevicare in quei giorni e non avevamo i riscaldamenti, io e la mia coinquilina, e io ancora conservo questa foto di questa stufa che è comprata con la mia zakat, ecco. È molto interessante la cosa che dici, anche perché quando in apertura di puntata facciamo le notizie io e Ignazio De Francesco, anche lui ha degli aneddoti da raccontare sulla sua vita a Damasco, e racconta molte volte che nella cultura di questi paesi c'è proprio molto l'attenzione all'altro prima che lo chieda. E non so se hai un aneddoto anche su questo, prima di lasciarci. Assolutamente, posso confermare, io lì ho toccato con mano che cos'è la solidarietà. Quando io vivevo come studentessa, io vivevo insieme ad una ragazza franco-marocchina, spesso il fine settimana ci arrivavano piatti di cibo, ci arrivava la spesa, ad un certo punto, perché ecco, il quartiere contribuiva al nostro sforzo, cioè loro ci sostenevano in tutti i modi nello sforzo di essere all'estero e imparare una lingua. E un'altra cosa, io ho ricevuto lezioni di Corano a titolo assolutamente gratuito tutti i giorni, cioè questa maestra che mi accoglieva a casa sua ogni giorno, perché si preoccupava del fatto che una volta in Italia io non avrei trovato qualcuno che mi potesse insegnare il Corano, e questo ecco, senza mai averlo chiesto, sono tutte cose che mi sono arrivate ecco, senza aver mai dovuto bussare alla porta. E proprio parlando del bussare alla porta, adesso un brano lo lancio io e si intitola Il Pescatore, ed è del nostro cantautore italiano Fabrizio De André, e parla di un incontro veramente sulla soglia tra due persone, un pescatore e un assassino, ma tutto sotto un tetto di una grande umanità. Sentiamo perché. Grazie Rosanna, alla prossima. Grazie. All'ombra dell'ultimo sole s'era soffito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso. Alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ho fame e chiese al vecchio dammi il vino o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio giurno, non si guardò neppure il turno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva o sete o fame. La la la la. Il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro le spalle un pescatore. E anche oggi, dopo le parole di Rosanna Sirignano, che ci accompagna in questa rubrica di spiritualità islamica, ci salutiamo e vi ricordo sempre di scriverci. L'indirizzo postale sempre Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2 40 136 Bologna, oppure la posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Il laboratorio di questo pomeriggio, oggi che è mercoledì, sempre a cura di Agnese Drusiani con l'equipe sanitaria del carcere. Ringrazio tutta la redazione, gli ospiti di questa settimana, Roberto Lolli, Ignazio De Francesco, il nostro tecnico Matteo Parisini, e noi ci rivediamo sempre domani, ore 9 sulla radio e ore 10:30 su Teletricolore. Ciao!